Oggi mi è stata offerta un'altra occasione grandiosa in un top club, perché la nazionale è top del top. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Les événements survenus depuis quelques jours en Belgique, les attentats commis ce matin à l'aéroport et dans le réseau métropolitain de Bruxelles nous rappellent tragiquement le haut niveau de menace auquel la France et ses partenaires européens sont confrontés. La position qui est la nôtre, c'est de ne pas céder. Quello che sentite, ma che avrete già sentito magari nei lunghi speciali in altre edizioni di GR24 con la nostra radio che sta seguendo attimo per attimo la nuova tragedia di Bruxelles, ebbene quello che state sentendo è il ministro degli interni francese Cazeneuve che a domanda risponde: gli europei di calcio non sono in pericolo. Gli europei di calcio ci saranno, si disputeranno. Giornata tremenda quella di ieri, ormai una delle diverse con cui abbiamo avuto a che fare, che abbiamo vissuto, ombre sulla vita civile, e altro che rizzoli alla Juventus, e ombre anche sullo sport. Ciao Pierluigi Pardo. Ciao, come va? Ciao, va bene. Sentiamo cosa ha detto ieri, cosa ci ha detto ieri Abete, questa intervista ripresa da praticamente tutti i media. Vicepresidente dell'UEFA. Il rischio porte chiuse esiste all'europeo? Ma il rischio da un punto di vista tecnico può esistere sempre. Perché? Perché parliamo di una competizione diciamo in cui l'evento deve avvenire, nel senso che se parlassimo di partite tra virgolette rinviabili o di eventi ecco una amichevole eccetera o una partita ufficiale che può essere rinviata ad altra data, evidentemente questa fattispecie è una fattispecie che non si presenterebbe. Nel momento in cui lei ha un torneo, ovviamente il torneo sconta il fatto che determinate date sono ognuna funzionale al risultato finale del torneo, altrimenti il torneo non può andare avanti. Oggi c'è stata una dichiarazione ufficiale dell'UEFA: siamo totalmente fiduciosi che tutte le misure di sicurezza necessarie saranno messe in campo per garantire un campionato europeo sicuro e festoso, e dunque non è prevista la disputa di partite a porte chiuse. Quindi respiriamo. Pierluigi, 800 24 0024 è il numero verde. È chiaro che partiamo da qui e poi allargheremo il discorso al calcio giocato, a Conte, a tanti altri temi molto più leggeri, che anche perché non bisogna dimenticare di vivere la quotidianità, ed è giusto andare verso le partite dell'europeo a porte aperte e possibilmente indossando un bel sorriso. Sì, sicuramente. Il punto è che qui siamo di fronte a una cosa più grande di noi. Cioè, è tutto giusto, culturalmente è tutto giusto, il ragionamento che in tanti abbiamo ripetuto, e che dall'11 settembre in poi, purtroppo tutte le volte che ci sono queste tragedie, portiamo avanti è perfetto. Cioè, sappiamo benissimo che non dobbiamo snaturare il nostro modo di vivere, sappiamo benissimo che la forza di questo pezzo di mondo sta proprio nella libertà di poter fare certe cose, nella semplice felicità di andarsi a mangiare una pizza o andare a vedere una partita, e questo è evidente. Il problema è che però quando succedono queste cose, e succedono purtroppo anche in dei luoghi che dovrebbero essere particolarmente presidiati e particolarmente sorvegliati, insomma tutta la problematica viene fuori, certo, in una maniera devastante. Anche quindi, se ci diciamo tutte le volte che la risposta è la normalità. Noi vogliamo fino al 10 giugno. No, ma sicuramente la risposta è la normalità, sicuramente culturalmente non dobbiamo cambiare, però non dobbiamo cambiare, però che Dio ce la mandi buona, cioè veramente mi sembra, scusate la banalità, ma mi sembra questo il tema, nel senso che se un aeroporto che dovrebbe essere sulla carta uno dei luoghi più sorvegliati al mondo può essere colpito in questa maniera, beh insomma... Ma non voglio fare così la banalità. È chiaro che se tu hai di fronte a te delle persone che sono disposte a sacrificare la propria vita, perché tutto è cambiato da quando ci sono i kamikaze, Sì. Tutto è cambiato, perché è ovvio che diventa un tipo di confronto impari, no? Quello no, con ma loro. È chiaro, è una battaglia senza un nemico dichiarato, senza un nemico sotto colori particolari, senza un nemico con una patria, sì, una bandiera, senza una dichiarazione di guerra. Aumentare la sorveglianza, aumentare l'intelligence e pregare Dio. Non vedo molte altre soluzioni, francamente. No, non ce ne sono. Soprattutto dal nostro punto di vista, cioè di appassionati di questo gioco. Allora, intanto vogliamo mandarvi al cinema. Vogliamo mandarvi al cinema anche oggi. In palio 4 copie di biglietti per il nostro contest. Vi chiediamo via SMS 349-238-6666 com'è giusto che il calcio reagisca a quanto sta succedendo, con particolare riferimento agli europei. Rispondendo, leggeremo tutti i vostri messaggi e vi manderemo al cinema a vedere Barça Dream, la storia del Barcellona raccontata con la voce, tra l'altro, di Pierluigi Pardo. Adesso ci fermiamo per il traffico, poi torniamo e affrontiamo l'europeo, sì, ma il caso Conte. Tutti convocati. Tutti convocati. Allora, il primo messaggio che ricevo: anche nelle peggiori tragedie voi tornate a Rizzola alla Juventus. La verità non l'abbiamo fatto ancora, poi magari, ma se volete ne parliamo, ma liberamente, anche questo fa parte del gioco. Saluto e ringrazio Giancarlo Marocchi, ormai ciao. Noto, notissimo volto di Sky, oltre che giocatore notissimo. Che tutti conoscete. No, stavamo dicendo io e Pardo. Insomma, prima di andare sul discorso Conte e riguardo al clima di questi giorni, a quello che ha detto ieri Abete, a quello che ha detto oggi l'UEFA, insomma, andiamo verso l'europeo, che ci sarà, dice il ministro degli interni francese, a testa alta e, dicevo io prima, possibilmente indossando un sorriso, perché ci dicono continuamente che la risposta alla migliore arma non convenzionale in questi casi è la normalità, e questa sarebbe la normalità, Giancarlo. Sì, perché poi lo faremo veramente, perché dopo qualche giorno, fortunatamente dico io, riusciamo in qualche modo a farlo diventare un ricordo lontano, quello che purtroppo è successo nei giorni scorsi a Bruxelles, perché altrimenti non vivremo, cioè non andremo più al cinema, al ristorante, a teatro. Chiaro. E quindi giustamente noi dobbiamo andare allo stadio per sorridere, per divertirci, quello c'è. E poi sappiamo tutti, perché in un angolo del nostro cervello, più che in un angolo, sappiamo che purtroppo nel mondo c'è questo problema. Certo, cioè, come diceva Pierluigi, andare sì con fiducia, sperando che Dio ce la mandi buona. Perché questo è perché grande questo, Pier, questo, esatto. Questo è il senso. Sei, no, Pier? Sei lì? No, sì. Adesso sì, no. Sai che mi hanno cambiato 3 applicazioni diverse. 3 applicazioni diverse. Però vabbè, più o meno ho sentito, e devo dire, insomma, sì, la sintesi, sono sintesi tutte banali, sono tutte impotenti. Cioè, le sintesi sono tutte impotenti. No? È un atto di fede. È un atto di fede. Non c'è molto altro da, secondo me, da dire, da aggiungere. Qualcuno dovrà prendere una decisione, premesso che, non è che è già stata presa. Che non è che potrà garantire al 100% che non ci saranno problemi, però dovrà quantomeno garantirlo al 99,9999%. Sì. Altrimenti no. Allora, posto che gli europei ci saranno, sì, e che sulla panchina dell'Italia ci sarà un commissario tecnico, come ho detto molto spesso nei giorni scorsi, che è già l'allenatore del Chelsea, un commissario tecnico che non vuol più stare in parcheggio. E poi è il momento, garage. Ovviamente, sì, garage, dove volete voi. E poi è anche il momento delle autocandidature, come quella di Cannavaro. Allora sentiamo, Conte Cannavaro. Stare 4 mesi senza fare niente, pensare che ce ne siano altri 2 anni così, sinceramente ho avvertito una difficoltà, ecco, da questo punto di vista. Farei molta fatica, ecco, a a stare in garage, ecco. Quando una macchina è in garage è lontana dal prato, no? Quindi tu entri nel garage, senti il profumo delle gomme, senti il profumo dell'olio della macchina, senti il profumo della macchina, ma non senti il profumo dell'erba, questo è fuori dubbio. Chi è che non ha l'erba nazionale? Penso che tutti quanti, anche perché parlando dell'esperienza nazionale sono stato 15 anni, quindi la conosco, so cosa vuol dire quell'ambiente, ma sono allenatore, quindi qualsiasi cosa uno la deve prendere in considerazione. Carlo Marocchi, senti il profumo delle gomme, dell'olio della macchina, ma anche dei soldi, secondo, perché tutto sommato è un lavoro molto ben retribuito, quello di commissario tecnico, almeno per Conte. Esatto, no, tutto questo, ma era normale che finisse così, cioè non mi aspettavo altro, però per favore datemi un selezionatore, sì. Datemi chi vi pare per il prossimo giro, per i prossimi 4-8 anni, perché tanto Antonio è allenatore, è allenatore, sarà per sempre allenatore, invece selezionatore bisogna che la prenda con calma, che si accontenti di andare a vedere le partite, che si accontenti di stare in garage e di uscire ogni tanto, perché da che mondo è mondo la nazionale fa 10 partite all'anno, quindi c'è poco da fare. Quindi non mi meraviglio che sia andata a finire così. Ecco, adesso in preparazione degli europei tiriamo in alto una moneta e vediamo cosa succede, perché se riesce a convocare 23 giusti, che si crea un equilibrio, si butteranno nel fuoco per la maglia, per Conte, per noi, eccetera. Se non ci sono gli equilibri giusti, con un allenatore che andrà via finita l'ultima partita degli europei, come dice il Trap, sarà un casino. E staranno attenti solo i titolari, gli altri se ne fregheranno. Sì, l'idea del selezionatore è un po' blasé, Giancarlo, non esistono più. L'ultimo mondiale l'abbiamo vinto con Lippi, che era un allenatore, ma che non si è mai lamentato, no, come, ecco, Conte. Ma infatti di posso dire che è questo. Love mi sembra un selezionatore, insomma. Sì, Love è un selezionatore, no, fatto secondo me. Secondo me, fra il punto è un altro. Cioè, è chiaro che è stato un elemento di insofferenza da parte di Conte. Dall'inizio sì, con la speranza, secondo me, da parte sua del Dio ti cambierò, cioè di riuscire a cambiare certe dinamiche, e magari con la sensazione che poi lui stesso potesse innamorarsi più di questo tipo di ruolo, che non è successo. Secondo me, francamente, l'altro giorno, insomma, io non gli avrei consigliato di fare questo discorso qui del garage, perché mi sembra dal punto di vista della comunicazione molto facilmente attaccabile. Insomma, non mi è piaciuto, ne apprezzo l'onestà, però io, diciamo, da consulente di comunicazione non gli avrei consigliato di fare una roba del genere. Gli avrei detto di dire altre cose, perché secondo me si presta a delle critiche, soprattutto dà la sensazione, capito, che la nazionale sia un garage, un parcheggio, appunto. No, ma è così. È quello che è stato. Tanto lui per 2 anni è stato parcheggiato lì. Poi, se gli avessero fatto allenare i giocatori durante la settimana e il sabato e la domenica andavano a giocare per il loro club, sarebbe rimasto. Cioè, nella sua testa c'era questa cosa, questa utopia quasi. Cioè, gli stage li avrebbe voluti fare tutte le settimane. Quindi era normale che finisse così. Perché Conte è un allenatore, dai. Ma anche Lippi era un allenatore, però, anche, ecco, secondo me, esatto, Prandelli, scusa, era un allenatore, siamo arrivati in finale europeo. Non è che serve per forza un selezionatore, cioè non serve per forza un percorso federale un po' all'antica. Secondo me può essere anche un allenatore, ma un allenatore un po' più ridotto, cioè un allenatore meno in una fase di rampa di lancio come quella di Conte. Certo. Il punto è che Conte è un uomo furioso, ma in senso di furia agonistica positiva, sì, che è ambizioso, che ha mille sfide davanti a sé, e sicuramente in questi 2 anni la nazionale gli è andata un po' stretta, sì, premesso che è stato pagato molto bene. Pur sapendo fin dall'inizio che... trovare uno un po' più risolto, uno che in questo momento sa che allena la nazionale, come dice giustamente Marocchi, fa 10 partite l'anno, sa che si gioca tutto poi alla fine ogni 2 anni e va bene, ma insomma, e ha però l'orgoglio e il piacere di allenare una grande squadra di un grande paese di calcio. Giancarlo, Cappello è un selezionatore? Sì, arrivato a questo punto mi auguro di sì, insomma, anche se è un uomo a cui piace fare tante cose, all'età giusta per fare selezionatore. Ranieri sarebbe un selezionatore? Ranieri sì. Donadoni, eccomi lì. Ni. Ventura, ni. Ventura, no o no? Ventura sì. Sì. Ventura, sì, anche per l'età, bisogna guardare l'età, chi è beh, come dice Pardo, un po' risolto, uno che ha già dato, esatto. non ha più tutta sta fame. Risolto mi piace. Ma in senso buono, cioè uno che appunto va lì e certo, che sempre fa fare senso buono. Quel lavoro lì senza avere la voglia di dire o il pensiero di dire sono qui, sono a Coverciano ma vorrei essere a Old Trafford. Posso dire che è la cosa che più mi ha dato fastidio nell'esperienza di Conte. Noi l'abbiamo appoggiato fin dal minuto zero, Pierluigi, la candidatura di Conte l'abbiamo sempre sostenuta, però la cosa che mi ha sempre dato fastidio è questo suo dire e far intendere però se non mi date quello che voglio me ne vado, però questo ruolo mi sta stretto. A ogni convocazione, a ogni giro c'era sempre l'ombra della possibilità di un addio e sinceramente non so te Giancarlo per chiudere, ma questa cosa a me ha un po' infastidito. A me no, perché conosco Antonio, quindi l'ho presa come una normalità, la stessa cosa è infastidito, per me era normale che fosse così, ecco. Sì. E poi alla fine diciamo la stessa cosa, è solo un approccio diverso. Certo, non è che poi nel resto del mondo i commissari tecnici abbiano mesi e mesi per preparare le cose. Assolutamente, ecco. Assolutamente, che vadano a giocare a golf, che si godano i nipotini, eccetera, e poi quando tocca loro, con amore e passione, perché alla fine per tutti quella maglia è amore e passione. Grazie. E però c'è un elemento di verità, secondo me, di Conte, in questo. Cioè, nel momento nel quale ti dico che secondo me l'altro giorno ha fatto un errore di comunicazione, ti dico anche che ne apprezzo l'onestà, ne apprezzo la sincerità, penso che non è stato lì a fare tanti giri di parole, ha parlato di cuore, di petto, dicendo una cosa che si presta a delle polemiche, che secondo me è una mezza gaffe, però almeno questo secondo me è apprezzabile, cioè l'onestà di dire che lui in questo momento ha bisogno di sentire l'odore dell'erba, poi oltretutto figura in Inghilterra, lui voleva andarci 2 anni fa in Inghilterra, aveva avuto un contatto col Manchester United nella famosa estate prima del rinnovo, e quindi insomma ma ci sta, ma io lo capisco, io no, come allenatore avrei probabilmente dubbio, lo stesso tipo di pensiero. Sì, alla sua età e nella sua condizione certamente. Giancarlo, grazie, a presto, ciao. Ci abbracciamo, ciao, io Pardo. Ciao. Adesso ci fermiamo per la borsa, torniamo 800 24 00 24, è il numero verde, vi aspettiamo qui. Bene, molto bene, il Trap apprezza, lo sentite? Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. JP Morgan Asset Management vi presenta... Si ricomincia! Tutti convocati. Nicola, scusami, siccome sono in diretta e sono corretto... Stoppiamo la telefonata, ti salutiamo, grazie a Nicola Rizzoli. Scusami Nicola, ma chiudiamo la telefonata, va bene? Grazie Rizzoli, scusami. C'è un errore e mezzo a vostro, a sfavore dei nostri cugini. Ma l'anemia è una cosa diversa. Perché voi volete tirare fuori la filosofia da 4 soldi. Ma non filosofia, annullare un gol. Ma mi fai parlare, porcaccio Giuda. Ma che c'entra la filosofia? Ma porcaccio Giuda! Ecco. Ma porcaccio Giuda! Salutiamo Giuda. Addio santo! Ma possibile tu sia Giuda è il quarto uomo in questa storia. Ma Pasquale, tra l'altro, lo ricordiamo, c'è stata la domenica delle parti. Buoni ragazzi. Dai. Sul caso specifico di cui si è tanto dibattuto, lui dice che non è stata assolutamente una testata, che lui si è avvicinato e che ha continuato a protestare per il rigore, per cui lui lo ha ammonito. E questo, mi permettete, diciamo, faccio una forzatura giornalistica, ma mi sento di dirla, ha detto è un caso normalissimo che succede spesso. Perché non l'hai espulso? Perché per quello che dicevi tu poco fa, non lo dico io, l'ho detto. Dillo se hai coraggio. Perché in Europa bisogna andare a protestare, giusto? Ecco, avete detto. Bisogna protestare per farsi sentire. La Juve quest'anno non era d'Europa. E dunque? Punto. No, era scarsa. Stai dicendo che in Italia viene protetta. Dillo. Dite quello che volete. Devi avere il coraggio di dirlo. I concetti sono chiari. L'altro filosofeggia. No, ma dillo se hai coraggio. Tu lo dici, se tu lo so, ma stai dicendo, tu stai dicendo. Questo è quello che volevate sentire, cioè la seduta del dell'ONU, no? Salutiamo Giuda. Salutiamo Giuda con Pierluigi Pardo nelle vesti di Kofi Annan. Mamma mia. Questo è quello che volevate sentire. Stranamente, Cruciani, il solitamente pacato Cruciani. Sì. Beh, Cruciani Oldani è stato un momento straordinario. Sì, Oldani è l'uomo più pacifico del mondo, no? Ha fatto questo attacco incredibile, come se avesse delle cipolle caramellate davanti. Sì, che non gli scaramellavano come. E Cruciani che urlava: il Napoli ha vinto con due gol irregolari! Irregolari! Cruciani è straordinario, ho capito questa cosa. Pacificatore. No, ma a parte questo, perché lui ha proprio la cultura, ma lo dico con enorme stima, e la cattiveria agonistica, diciamo, tra virgolette, del titolo. Cioè lui. Hai sentito? Dillo, cioè, il dillo, così lui lo dice, e a quel punto è già pronta l'agenzia, già sono pronte le nuove colonne. E anche il famoso titolo Cairo, la giorno che ti sono puntata, lo sai, è stato assolutamente pacatissimo. Sì, sì. Ma diciamo, il titolo La mia storia con la signora, gliel'ha strappato Cruciani, che gli ha detto: si sente scippato? E lui ha detto: beh, in effetti mi sento scippato. E ho letto poi sui giornali, insomma. Mi sento scippato, quindi onore veramente al compagno Cruciani. Compagno, non lo so, insomma, mediamente non credo tanto compagno, però vabbè, compagno di banco, compagno di banco, cioè, era di merende da ormai da mille anni. Giampiero, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Senta, io volevo intervenire sulla sicurezza per quanto riguarda gli europei, che è stata parlata anche da Abete, e diciamo il problema vero credo sia e quello che può succedere negli stadi. Cioè, se prendiamo ad esempio un modello italiano, dove nello stadio può entrare di tutto, ogni domenica si vede allo stadio che scoppiano dei petardi. Sì. Però non, innanzitutto non prendiamo ad esempio il modello italiano, perché non sarà quello il modello seguito. È quello, però ecco, quindi diciamo la paura di Abete dovrebbe essere più quella, diciamo, che non c'è il modello italiano in Francia, perché io vedo che quando vado allo stadio c'è un discorso di prefiltraggio, ma riesce ad entrare tutto, quindi penso che in Francia si organizzeranno molto diverso, quindi non ci saranno questi problemi. Sì, perché gli stadi sono nuovi, civili, moderni, e non sono delle latrine come spesso capita sul territorio italiano. Sì, però ancora. Ragazzi, non voglio essere catastrofista, ma tu puoi avere gli stadi più moderni del mondo, ma purtroppo le modalità del terrorismo moderno, il terrorismo purtroppo degli ultimi anni e del terrorismo con i kamikaze sono talmente secondo me incontrollabili, sì. che è dura, perché non è certamente, sì, l'idea che negli stadi italiani entrino i bomboni, i petardi, eccetera eccetera, questo è evidente, può sembrare un colabrodo, lì magari sarà anche diverso, potranno anche mettere il metal detector agli ingressi, potranno fare delle cose, i cani antiesplosivo, faranno tutto il possibile, però ecco, stiamo parlando di un evento che dura un mese, che riguarda un intero paese. Che riguarda l'intelligence, Pierluigi, perché cioè, terrorista no, in quel modo lo combatti nemmeno con tutti i controlli che vuoi, che pure con stadi nuovi e predisposti a questo sono molto più efficaci e semplici. Giancarlo. Eccomi, salve, buongiorno a tutti, grazie per la convocazione. A lei. Io capito a proposito perché volevo intervenire proprio sull'episodio che ha visto coinvolto Rizzoli con Bonucci. Ho sì. sentito prima, io sono juventino, quindi premetto magari, però mi reputo sostanzialmente, diciamo, obiettivo. La cosa che mi ha lasciato letteralmente sconcertato in questi due giorni è che sui social è comparso un fermo immagine dal quale sembra che evidente che Bonucci dia una testata a Rizzoli, ma quel fermo immagine è stato estrapolato da un video di 20 secondi, quindi con qualcuno che si è preso la briga di prendere questo video ed ad andare a estrapolare un fermo immagine di una frazione di secondo proprio per pubblicarlo e sì. tentare di dimostrare questa falsità. Questi giorni abbiamo visto qualunque cosa, per la verità, sì, non solo quel fermo immagine. Interessante. Questi giorni l'ha fatto Alessandro Sabatini, anche l'altra sera, poi ci saranno state mille altre, quindi, però tra quelle che ho visto io, come ero presente lì, ho fatto tutta un'analisi, non è molto giusta, sul fatto che oggi siamo arrivati alle tre dimensioni, siamo in 3D, perché c'è la velocità normale, c'è la moviola, quindi l'immagine rallentata, e poi c'è addirittura ormai il fermo immagine. E il fermo immagine spesso sui social network è fuorviante. Secondo me quanto di più fuorviante ci possa essere. E nel caso di Bonucci lo è, eh. Guardate, io lo dico sinceramente, secondo me Bonucci doveva essere espulso dopo. Cioè, secondo me, in quella circostanza lì, quando Bonucci va da Rizzoli e protesta in maniera veemente, ma si becca il giallo, quindi la sanzione secondo me è assolutamente logica, non c'è stata nessuna testata. Sappiamo benissimo che la storia del calcio è piena di altra gente che ha protestato con altrettanta veemenza, quindi non è uno scandalo come ha protestato Bonucci. Poi ci fosse stata la testata, sarebbe finito ovviamente negli spogliatoi, esatto. Non scherziamo. Il vero dubbio, secondo me, dove secondo me meritava il secondo giallo era dopo, quando lui era una Maxi Lopez lanciato comunque in una situazione interessante. Così come alla fine, l'abbiamo anche fatto vedere l'altra sera, sul 3-1 con la partita ormai compromessa, anche Glick fa un intervento già da ammonito da secondo giallo. Quindi su questo non ci voglio discutere, però sì. È molto interessante questo tema. No, certo. Senti, allora proviamo, Pierluigi, proviamo ad elevarci un attimo dal coro, nel quale poi ci rimergeremo, perché adesso, subito dopo il traffico, ma già li saluto, apriamo il caffè letterario con due grandi scrittori che sono tifosi, uno della Juventus e l'altro del Napoli. Sandro Veronesi, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Saluto anche Maurizio De Giovanni. Salve, uno scrittore grosso. Ma non sapevo niente, ma ha fatto sto regalo. Hai visto? Sandro, Maurizio, non hanno fatto sto regalo, non sapevo nulla. Non sapevi nulla? Allora ti vogliamo bene, Pardo. E allora, facciamo traffico e poi il compito di lor signori è di guidarci al caffè letterario al di sopra delle polemiche di questi giorni. Tutti convocati. Convocati. Allora, Sandro Veronesi e Maurizio Di Giovanni, portateci fuori da questo casino. Ce la facciamo, Sandro? Sì, certo, soprattutto si parla di Napoli e Juventus. Sì, si parla di Napoli e Juventus, per l'appunto, ma a me sembra tanto Guelfi contro Ghibellini ad ogni fischiata avversa. Ma io non sono così. Poi, certo, la frustrazione c'è quando subiscono dei torti, la televisione lo dimostra e noi altri insomma ne sappiamo qualcosa perché mercoledì scorso insomma ci sono stati degli errori, però non conviene a nessuno, insomma in realtà è un'arma controproducente perché crea alibi inconsci, ma crea alibi e dopo uno si convince di essere stato sconfitto ingiustamente, di essere vittima. In realtà anche a Monaco la Juventus insomma è arrivata a un pelo, poteva benissimo passare il turno anche con quegli errori e ci è arrivata vicina. Quindi la dimostrazione è che insomma si dice che fanno parte del calcio e così è, ma soprattutto finché non ci si decide a utilizzare gli stessi strumenti che abbiamo noi a farli utilizzare dagli arbitri, è chiaro che queste cose continueranno a essere. Quindi Sandro, ha sbagliato Marotta ad andare a parlare al fischio finale? Premesso, io credo che la Juve nelle due partite sia stata oggettivamente danneggiata, penso chiaramente in buona fede, ma non c'è alcun dubbio, però appunto il ragionamento è quello lì, che se tu poi ti lamenti, ripeto, legittimamente, giustamente per un arbitraggio come quello e poi però rischi che la prima situazione successiva gli altri possono fare lo stesso con te. Io invece girerei, se permetti, questa domanda a Maurizio Di Giovanni, Pierluigi. Dall'altra parte della barricata, through the barricades. Sì, no, ma non ci sono barricate. No, non ce ne sono. Amico Sandro, è sempre un piacere sentirlo, anche così a distanza e anche tramite i media. No, io sono convinto di una cosa, fondamentalmente, che mi rendo conto di essere anziano nello stesso momento in cui lo dico. Perché certi valori educativi dello sport, che viene visto, tanto più uno sport come questo, che viene visto da tantissime persone e quindi da tanti ragazzi e molti bambini, purtroppo sta perdendo questo tipo di manifestazione sportiva un valore minimamente educativo. Sono d'accordissimo, a me non interessa minimamente dell'errore tecnico. L'errore tecnico lo fanno i calciatori, lo fanno gli arbitri, non è rilevante. Non ammonire o ammonire, chiamare un fuorigioco o non chiamarlo, sono errori che ci possono stare, ed è anche naturale che di fronte a campioni consolidati, straordinari interpreti del gioco, anche un arbitro, anche un guardaline possa sentirsi in qualche modo situazione. Questa è una cosa che io credo sia umana e naturale. E Higuain l'anno scorso sbagliava il rigore a porta vuota praticamente. Sì, esattamente. Ed è solo cose che secondo me vanno prese in considerazione adeguate. Diverso è, e io in questo dissento fortemente da quanto ho sentito prima, nell'ultima parte della trasmissione, anche da un ascoltatore, non è questione di fermo immagine o non fermo immagine, non è questione di testata o non testata. Ma se un calciatore si consente di andare vicino a un arbitro che è l'autorità costituita in quel momento e urlargli in faccia, io non voglio dire testate, ma urlargli, sta urlando evidentemente Bonucci, a meno che non stia sbadigliando in quel fermo immagine, ma non credo, e gli urla nell'orecchio con violenza inaudita quello che ha da dirgli, io credo che un arbitro che non lo sanzioni corre al serio rischio di abdicare a una propria funzione. Cioè l'arbitro non è più arbitro in quel momento, diventa un interlocutore passivo di una manifestazione che di sportivo non ha nulla. Bisognerebbe far capire ai grandi campioni, Bonucci sicuramente lo è, che loro, che vestono anche la maglia della nazionale, rappresentano un certo complesso di valori e una certa articolazione di emozioni per le quali non possono permettersi certi atteggiamenti. Questo è il punto. Sì. Ed è l'unica cosa che io ho da rimarcare su Rizzoli nell'arbitraggio di Juventus, di Torino. Sì, Juventus non credo, perché poi gli altri sono errori tecnici che sì, sono, Sandro lo diceva benissimo, vanno e vengono. Ma su questo sono d'accordo. Certo Sandro non ha, Bonucci ha ragione, Maurizio non è andato lì a declamare una poesia, neanche i Promessi Sposi, non a Silvia di Leopardi. No, certo, a me non è piaciuto, così come non è piaciuto che dira, che invece è stato che si è beccato due giornate, tra l'altro, non mi piace che i giocatori di quella levatura, tra l'altro, quindi vuol dire esperienza, vuol dire come diceva Di Giovanni, anche esempio, facciano queste cose. Io sono d'accordo, se io fossi un arbitro le partite finirebbero tutte in 7-7, perché non tollererei queste cose. No, non le tollererei. Sono formato, ho portato per anni mio figlio a giocare a pallanuoto, e nella pallanuoto non si può neanche rivolgere la parola all'arbitro, si viene espulsi. L'arbitro ti parla a gesti, tu devi capire cosa dice con quei gesti, perché c'è un alfabeto preciso, e se tu gli rivolgi la parola e dire non ho capito, ti butta fuori. Va bene? Ma c'è arbitro e arbitro, eh? Beh, nel calcio invece no, nel calcio non si sa qual è il limite, perché appunto uno può essere più tollerante un giorno, non si sa, perché ci sono proteste che a volte, quella di Bonucci domenica, sembrano lampantemente esagerate, ma anche quel continuo protestare dopo un fallo chiaro che è stato fatto, protestare, io fossi l'arbitro ti mando fuori, perché oltretutto c'hai torto, per cui non voglio neanche stare a sentire. Posso sbagliare qualche volta, ma tante volte ci sono palli da dietro, c'è l'ammonizione, e non parlo di pinco o di pallino, si vede sempre questo, e sono sempre a protestare. Qualche volta ci sono le parolacce, qualche volta le parolacce vengono sentite, e quelle, gli insulti, vengono sanzionati. Ma secondo me, sono d'accordo con De Giovanni, anche reagire così all'autorità costituita è un insulto, e quindi, siccome non c'è vantaggio nemmeno per Bonucci, perché non ci guadagni nulla a trattare l'arbitro così, se lo butta fuori fa il suo sacrosanto dovere. Solo che bisognerebbe che questa cosa venisse adottata da tutti sempre in maniera unanime. Un anno questi imparano a stare zitti, capito? Ma certo. Però immaginate se nel tennis, se negli altri sport fosse un lavoro del genere, solo nel calcio. Sì. Solo nel calcio. Cioè, poi c'è qualche eccezione, come a proposito di tennis, McEnroe per anni ci ha divertito con le sue bizzarrie. Parla a te l'ultima domanda. Quanti game ha perso McEnroe per tre warning di fila? Ragazzi, lui le beccava. Pagava e le beccava, però, perché non si può. Non si può, hai ragione. Comunque, ragione. Rizzoli, ragazzi, giusto Paolo, o sbagliato che sia, secondo me... Ti lascio l'ultima considerazione ai nostri due ospiti, un minuto. Sì, no, questa cosa qui è Rizzoli, perché abbiamo preso anche per esempio l'Udinese-Roma famoso con i tre baffa di Totti, Rizzoli ha questo tipo di approccio, altri arbitri non perdonano. Chi vince il campionato? Andiamo sul prosaio, due grandi scrittori, chiediamo di scendere sul piano così, molto, molto terra-terra, molto pop. Chi lo vince? Maurizio. Ah, ecco, speravo di rispondere per un... No, no, io credo che il Napoli il suo campionato l'abbia di fatto già vinto, tenendo in dubbio e in piedi per la prima volta da anni un campionato, essendo tutto sommato distante tre punti, che non sono altro che quel tiro di Zaza dall'88esimo, sì, esatto. Quei tre punti, una tenendo in botta ad una squadra che ha vinto 19 partite sulle ultime 20, pareggiandone una, quindi di fatto avrebbe ucciso qualsiasi campionato una squadra del genere, certo. Invece il campionato è ancora vivo. Sandro, chi lo vince? Il Napoli continua a tenerlo vivo, quindi io, per quanto mi riguarda, sarei lieto se questo tenere botta fosse alla fine riconosciuto dal destino. Quindi, Sandro, per quanto mi riguarda, e usando le mie mani in maniera non visibile per radio, certo, spero che il Napoli regga fino alla fine. Sandro Veronesi? Anch'io temo che lo vince il Napoli questo campionato. Per scaramanzia? No, perché appunto aveva cominciato in modo molto promettente anche De Giovanni, dicendo è come se avessimo vinto, se avesse seguitato così allora lo vinceva la Juve, ma invece sono affamati e non si accontentano ad arrivare secondi, e siccome la squadra è molto forte ancora adesso, io temo che questi tre punti non bastino. Grazie Sandro Veronesi, Maurizio Di Giovanni, grazie per Luigi Pardo con cui ci sentiamo domani. Devo lanciare di corsa il GR, torniamo subito dopo e andiamo alle classiche del Nord, in dubbio, in discussione o forse no. Tutti convocati. Il segnale orario vi è offerto da Index, protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Dal 31 marzo Renzo Martinelli al cinema con il suo nuovo film Ustica, una verità inconfessabile. Vedi quella sagoma scura laggiù? Quella è Ustica. Il 27 giugno 1980 il volo Itavia Bologna-Palermo precipita in mare al largo di Ustica. 81 vittime. Una tragedia, secondo me. Per più di 30 anni ipotesi e smentite sulla verità, tra indagini, reticenze e false testimonianze. Su Radio 24 il film diventa un radiodramma. Il dolore di una madre, l'indagine di una giornalista, la ricostruzione di una verità. Questa è la prova che c'è stata una collisione in volo. Ustica, una verità inconfessabile, di Renzo Martinelli. Lunedì 28 marzo alle 15 e alle 21.30 su Radio 24. Da giovedì 31 marzo al cinema. Info su radio24.it. Convocati. Tutti convocati, ascoltatori per ripartire, 800240024 numero verde, e poi, visto che ieri abbiamo affrontato la questione ma il tempo non era molto, parleremo di ciclismo nelle grandi classiche del Nord, ovviamente in un momento che, come ben sapete, è per dir poco particolare. Antonio, provincia di Modena, buongiorno. Buongiorno, grazie per la convocazione. Grazie a lei. Senta, io è la domanda che volevo fare, perché nel mio pensiero, cioè da quando Conte fa il nostro ciclista nazionale, io ho sempre pensato che Conte accettò la nazionale italiana per un patto che lui veniva dall'inquisizione di calci scommesse. Lui accettò di fare il ciclista nazionale come se fosse una specie di paravento, come devo dire. Questo è il mio pensiero. Sì, poi... questo è il suo pensiero, è il suo pensiero, e mi sa che se lo terrà, Antonio, perché non, mi sa che se lo deve tenere questo suo pensiero, perché io non ho niente da rispondere, è semplicemente una sua supposizione. Io non credo, anche perché la storia delle scommesse, i procedimenti sono andati avanti e siamo arrivati al punto in cui siamo arrivati, ci dovrebbe essere una sentenza prima dell'europeo. Io non credo proprio che abbia voluto scientemente utilizzare la nazionale come paravento. Ha affrontato questa avventura, l'ha fatto anche con buoni risultati. Adesso si tratta di chiudere questo piccolo circolo non usuale, perché normalmente il lavoro di un commissario tecnico lo giudichi nell'arco del quadriennio mondiale, chiude questo piccolo circolo che gli è sempre andato molto stretto e tornerà ad allenare il club, andrà al Chelsea. Quindi questo retropensiero io non riesco a levarglielo, io non credo sia così, semplicemente questo. Leonardo, provincia di Trapani. Sì, buonasera, grazie per la convocazione. Buonasera. Allora, io chiamavo per due cose. Intanto per il discorso di Conte, secondo me è stato troppo prematuro arrivare in nazionale, era ancora, diciamo, giovane. Sì. E doveva un po' godersi di più la panchina giorno per giorno, per cui sono è d'accordo. Stato un po' troppo stretto. Sono d'accordo, come diceva prima Pardo, è meglio la figura di un allenatore che sia più risolto, cioè che abbia già avuto le sue esperienze con i club, che abbia magari già vinto, che abbia si sia già tolto le sue soddisfazioni, che accetti in toto il ruolo del CT senza pretendere di arrivare lì e cambiare il mondo, perché quello non è possibile, ma non è possibile non solo in Italia, il discorso vale per tutte le nazionali. Immaginatevi il commissario tecnico della nazionale brasiliana o di quella argentina, che hanno i giocatori dall'altra parte del mondo e se ritrovano dopo l'attraversamento del globo magari poche ore prima della partita, quindi sono un po' tutti sulla stessa barca. Poi Leonardo. Sì, no, poi volevo un attimo parlare del derby Torino-Juventus. A parte, dico, condannare l'atteggiamento di Bonucci che guida l'arbitro, a me non piace questo, non piace nemmeno quando il giocatore chiede il castellino per l'avversario dopo che gli ha chiesto un fallo. No, nemmeno me, io glielo sventolerei in faccia subito. Cioè, se uno mi chiede il cartellino glielo do a lui, quindi sono d'accordo. Ecco, io queste sono due cose molto antipatiche, anche se poi capisco che la fatica, la tranza agonistica magari mi portano un po' a eccedere in alcune cose, la voglia di vincere e tutto il resto. Io però volevo anche capire se la partita doveva essere analizzata un attimo su tutti i 90 minuti, perché anche nel primo tempo c'è un fallo di reazione di Glick sull'Ixteiner, c'è un fallo fatto a Dybala dopo che aveva quasi dribblato tutto il Torino, eccetera eccetera, anche quelli andavano in qualche modo sanzionati. E credo che sia stata la direzione generale dei 90 minuti di Rizzoli che non sia andata bene. Sì, ma su questo ha ragione da vendere, infatti. Poi ognuno le guarda secondo le sue lenti, che siano granata, che siano juventine, che siano napoletane, eccetera. Rizzoli ha diretto malissimo, 4 in pagella, come si è beccato d'altra parte da tutti, per la direzione del derby. Se poi ci mettiamo, come sempre, a polverizzare la partita in 1000 microepisodi, possiamo star qui non dei giorni, come stiamo facendo, ma delle intere settimane. Noi invece vogliamo andarvi al cinema, vi ricordo, a vedere Barça Dreams, questo racconto molto romanzato della storia del Barcellona. Vi abbiamo aperto il contest, 4 coppie di biglietti. Il tema della giornata, così ritorniamo a bomba, è come deve reagire lo sport ai giorni, agli eventi che stiamo vivendo. Qual è il vostro pensiero, la vostra possibile soluzione? E il tema è particolarmente importante e attuale, anzi è questione di adesso, di oggi e di ora, per il ciclismo. Ieri ne abbiamo accennato, la primavera, il periodo di Pasqua viene santificato dai belgi, non solo con le funzioni religiose normali, ma con la santificazione della beatificazione del ciclismo, perché lì ci sono queste corse che rappresentano gli autentici santuari per tutti gli appassionati del ciclismo. E il giorno di Pasqua si apre con la Gand Wevelgem, poi il 3 aprile il Giro delle Fiandre numero 100. Ritroviamo ovviamente Pier Augusto Staggi, che saluto. Ciao Pier. Buon pomeriggio, ciao Carlo. E poi saluto e ringrazio Cristian Salvato, che è ex corridore e ora è, tanto per rendervi l'idea, il Tommasi del ciclismo, cioè il presidente dell'Associazione Italiana Corridori. Ciao Cristian. Buongiorno e ciao. Grazie dell'invito. Grazie a te. Allora, qual è la posizione ufficiale? Queste corse ci saranno. La posizione ufficiale dell'Associazione Italiana Corridori qual è? Ma le corse ci saranno, da quello che si legge, insomma, alcune non sono ancora proprio state, non sono state omologate, ecco, da parte del Ministero, perché leggevo che alcune ci sarà la conferenza stampa e verranno prese delle misure straordinarie. quello che è la posizione, insomma, credo che sia giusto che si corra, perché la vita continua, e credo che sia anche un segno importante da parte dello sport per le persone, un popolo ferito come quello belga, che si corra queste gare che per loro, giustamente, come hai ricordato, chiamano, ecco, dalla settimana santa, praticamente da quando parte Grand Prix, che poi c'è la 3 giorni di Le Panne e va a concludersi con l'apoteosi del Giro delle Fiandre. Il Giro delle Fiandre accoglie sulle sue strade milioni di persone, è qualcosa di unico nel ciclismo, e figuratevi in Belgio, che è lo sport nazionale, insomma, ecco, cosa vuol dire. Tra l'altro quest'anno coincide anche il 100° anniversario del Giro delle Fiandre, quindi c'è una particolare ricorrenza, e insomma credo che andare a togliere ai belgi e tutto lo sport mondiale questo evento, logicamente prima viene la sicurezza, però credo che verranno prese tutte le giuste misure per far correre i corridori in sicurezza, anche perché credo sia un segnale di dimostrare a queste bestie, non ci sono aggettivi per definire queste persone, che la migliore azione è quella di andare avanti, insomma, che non ci pieghiamo davanti, insomma, ecco. Perfettamente d'accordo. Perfettamente d'accordo, è il discorso che abbiamo fatto in questi giorni. Ci dicono tutte le volte che il miglior segnale è la normalità, la migliore arma non convenzionale per combattere questo tipo di battaglia è la normalità, è il sorriso, e questo vale per gli europei. E oggi abbiamo, l'UEFA ha detto che non è prevista la soluzione delle porte chiuse per gli europei di Francia che ci saranno, e questa è, in questi giorni e in queste ore, Piero Augusto, la soluzione che stanno pensando. Ovviamente misure di sicurezza imponenti, il clima sarà particolare, però la settimana santa del ciclismo belga ci sarà. Ma guarda, in verità non sono così sicuro. Diciamo che non hanno affrontato il problema, perché d'altra parte ieri c'era l'inferno, e quindi, con tutto il rispetto, anche se in Belgio il ciclismo è qualcosa di immenso, però c'erano delle priorità. Oggi ci sta mettendo mano, tanto è vero che è partito l'attraverso il Fiandre, che la stanno correndo, però perché non hanno affrontato il problema. Invece gli organizzatori, per dire, di Arel Beke, ma lo stesso sindaco di Gand, per la Gand Wevergem, ha fatto sapere che il Ministero dell'Interno sta valutando il da farsi, se incrementare logicamente le forze di polizia, o addirittura arrivare a una sospensione delle manifestazioni. Quella sarebbe una sconfitta grave. Questo è lo stato delle cose. Sono congelate e sono in attesa. Sia gli organizzatori di Arel Beke, che correranno la prossima settimana, sia la Gambellen domenica, sia la 3 giorni della PAN, logicamente anche il Giro delle Fiandre, sono in attesa di una parola definitiva da parte del Ministero dell'Interno belga, che stanno logicamente in queste ore. Domenica è la corsa, quindi domenica c'è la Gambevelgem, quindi è una decisione che deve essere presa a strettissimo giro di posta. E la prima che devono affrontare, il primo dubbio, se lo chiamiamo così, è quello di venerdì. Venerdì c'è il Gran Premio di Arel Beke, che è un'altra corsa piuttosto importante, di seconda fascia, ma che comunque ha storia ed è molto sentita in Belgio. Ci saranno anche una dozzina di corridori italiani che prenderanno parte a questa corsa. Poi dopo ci sarà domenica la Gent Wevergem, poi durante la settimana la 3 giorni di Le Panne e infine appunto il Giro delle Fiandre. Tutte queste manifestazioni sono sotto una lente di ingrandimento e le autorità competenti stanno discutendo proprio in queste ore il da farsi. Tanto, guarda, c'è il giocatore dell'Anderlecht, Mattias Suarez, che dice che a giugno lascerà il club, perché Anderlecht, club di Bruxelles naturalmente, perché devo pensare alla sicurezza della mia famiglia, ho paura. Questo dice. Intanto è notizia di oggi l'amichevole tra Belgio e Portogallo, inizialmente prevista allo stadio Red Baldovino della capitale belga. In un primo tempo si pensava fosse stata cancellata, invece si è deciso per un'inversione di campo, quindi si giocherà in Portogallo, a Leiria, Cristian Salvato, tu hai raccolto qualche preoccupazione tra i corridori italiani che andranno a correre in Belgio se queste gare ci saranno? Ma sì, ho sentito ieri qualche ragazzo e questa mattina, perché appunto era in dubbio, appunto i ragazzi, qualcuno hanno chiamati e hanno detto non si fa più nulla, la corsa è annullata. Alcuni appunto sono partiti anche per andare all'allenamento, dopo li hanno richiamati e sono riusciti poi a raggiungere il Belgio attraverso l'aeroporto di Lille o Charleroi, che credo non abbia avuto grossi problemi, soprattutto quelli che sono arrivati nelle prime ore del mattino. E erano abbastanza tranquilli, anche perché tra l'altro insomma dove si svolge la corsa non è proprio insomma in mezzo ai campi, ecco, diciamo, dove sono, quindi un po' però ci sono un paio di milioni di persone arrampicate sui famosi muri. Più che altro sarà per, diciamo, il Fiandre, che c'è un sacco di gente, e anche Arelbeke, che lo chiamano il piccolo Fiandre, che è un po' la prova, diciamo, l'ultima prova prima del Fiandre. Sicuramente in Belgio, appunto, essendo lo sport nazionale, ci sono un sacco di persone. Sì, come ha detto giustamente Pierre, dicevo anch'io prima, adesso è sotto, insomma, l'ultima parola aspetta al Ministero dell'Interno, insomma, per dare il via libera. Però io credo che sì, bisogna usare sempre attenzione. Io sono, purtroppo sono un ottimista, ma io credo che appunto avranno tutte le attenzioni, e anzi, se ci deve essere un posto sicuro, credo che adesso sia il Belgio, perché sicuramente tutte le forze di polizia, l'intelligence belga, estero, sono riversati per al massimo dell'attenzione, insomma. Quindi anche perché se viviamo con questa paura, appunto, poi cosa succederà nei prossimi grandi eventi? O immaginiamoci Parigi, quel che c'è stato, quando ci sarà l'arrivo del Tour de France, se ragioniamo così non si può più si può più correre, non si può più uscire, non si può più andare nemmeno in bicicletta, questo è vero, non si può andare in aeroporti, metro o quant'altro, insomma. Sicuramente non bisogna scherzarci sopra e prendere le cose sotto la gamba, perché abbiamo visto queste persone. Con le opportune, cioè se le autorità dicono si corre, si va là, si corre senza paura, e io spero se ci saranno queste corse, la solita grandissima festa di pubblico, avanti senza paura, credo, se dicono così. Credo che anzi, ci auspichiamo tutti, insomma, che si potrà correre in tutta sicurezza, e credo che anzi, credo che chi solo ha partecipato o ha visto almeno il Giro delle Fiandre può capire quello che sto dicendo, insomma, che festa è per il Belgio il Giro delle Fiandre, che credo sia proprio anche una festa più delle manifestazioni in piazza o altro, per sdoganare questa paura e dare un segnale forte. È una meravigliosa messa pagana dedicata al ciclismo e allo sport. Grazie Cristian, grazie davvero. Grazie a tutti. Pier Augusto, io saluto anche te, però ci risentiamo perché aspettiamo le decisioni. Quindi, certo, quindi stiamo sul pezzo e vediamo cosa verrà deciso dalle autorità belghe. Ciao Giacomo Bagnasco. Ciao Carlo, allora, buongiorno a tutti. Altra, a proposito di decisioni, oggi era indetta conferenza stampa per svelare il segreto di Pulcinella, cioè il nuovo nome del commissario tecnico della nazionale di rugby. Sì. Invece? No, invece è successo questo, che effettivamente la conferenza stampa si è svolta come congedo dal CT precedente, Jacques Brunel, al termine di 5 stagioni. Si è fatto un bilancio con lui e si sa che a brevissimo questo nome che tutti sanno verrà fatto. A un certo punto qualcuno scherzando col presidente Gavazzi ha detto: ma su quale scia si svolgerà questa nuova conduzione tecnica, visto che sarà con lo scia? Perché c'è questa ritrosia insomma, mi sembra abbastanza curioso, no? La Federazione Rugbistica Italiana è ormai una delle più importanti dello sport italiano, una delle anche delle più ricche, se vogliamo. Perché questo balletto? Ma guarda, quella di oggi può essere che sia stata anche, diciamo, una interpretazione che si era data senza capire qual era esattamente l'intento. Detto questo, effettivamente può esserci una questione di fair play, certo adesso prima lo sappiamo e meglio sarà. Ti dico due cose interessanti che comunque ha detto Jacques Brunel, sì, salutando. Ha detto che in futuro si augura che ci sia ci sia la possibilità di avere una sinergia più forte tra la federazione e le franchigie, perché qui sta la capacità di crescere del rugby italiano, e questo lo avevamo capito, che lui, certo, a un certo punto si fosse reso conto di non poter avere più di tanto voce in capitolo. Ha anche detto che c'è una squadra da ricostruire, abbiamo capito anche questo, ha fatto un bel ragionamento legato a questi giocatori che in questi cinque anni hanno lasciato per motivi di età, Perugini, Ongaro, Masi, Del Fava, ma adesso potremmo dire anche Castrogiovanni e Bergamasco, dicendo questi erano giocatori di presenza, di carattere, ma che avevano anche una storia consolidata. Il problema adesso è averne degli altri e, come ha detto il presidente Gavazzi, sperare che non vadano fin da giovani giovanissimi all'estero, perché con due franchigie italiane sarebbe una sconfitta. Però in effetti giocatori come Campagnaro e Sarto o all'estero ci sono già o ci saranno dalla prossima stagione. Normalmente, essendo professionisti, vanno a cercare... Naturale. Però è chiaro che se ci fossero delle franchigie più competitive riusciremo a tenerli in Italia. Facciamo così, che però per il Venerdì Santo ci sentiamo e secondo me è la volta buona. Speriamo, perché sembra di assistere al miracolo di San Gennaro. Venerdì Santo, qualcosa di religioso. La nomina del nuovo commissario tecnico dopo questa... E poi ci saranno anche vari altri nominativi che arriveranno, tant'è vero che ad esempio anche l'allenatore dei tre quarti, Filibero, oggi era al passo da Dio, insieme al suo connazionale. Tutto lo staff che si rinnova. Chiudiamo con Andrea da Treviso. Buongiorno, terra di rugby, abbiamo ancora un minuto. Dica. Buongiorno, grazie per la convocazione. Lei. E volevo dire, vabbè, che dopo ieri, io volevo parlare del derby, dopo ieri... Passata la voglia. Passa, cioè uno si rende conto che a volte si arrabbia anche per niente. Lo penso anch'io, Andrea. Sì, ma parliamone lo stesso, dai, visto che ci siamo. Anche perché dopo aver visto Tiki Taka mi ha fatto veramente compassione Pardo. Cioè, era un circo dantesco lì. Girone dantesco in cui Pardo doveva fare il pacificatore. Infatti sembrava il più tranquillo, sembrava Cucciani, è tutto dire. Mi dica un suo pensiero in 20 secondi sul derby. Allora, ringrazio tra virgolette la Juve, perché pur essendo la Juve così superiore ci ha dato a noi, torinisti la possibilità di lamentarci. Questo non è male, bravo Andrea. Bravo Andrea, così chiudiamo la trasmissione di oggi. Ringrazio Giacomo Bagnasco, naturalmente. Grazie, a presto. Qui ci sentiremo presto. Giorgio De Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia e Federico Binda in redazione. Ciao. Signori, alla prossima.